si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Partire il cross col sinistro, pallone troppo lungo, dall'altra parte però lo rimettono dentro, la deviazione è netta, Ossei, 1-1, il Galway che pareggia al 94esimo. Occhio alla ripartenza dell'Irlanda del Nord, pallone buono per Lafferty che salta con una magia, Stafylidis a campo aperto, Lafferty con il destro, preciso sul secondo palo, 2-0, Irlanda del Nord ad Atene. Sigurdsson, perfetta la trasformazione, 1-0 Islanda, Alfredsson fa dalla bandierina. Riesce a liberare la difesa olandese e Sigurdsson segna ancora, doppietta per lui, 2-0 e finisce così, l'Islanda vince ancora 3-3. Piszczek, il cross per Milik, segna la Polonia con Arkadiusz Milik, sbaglia Neuer, segna il ragazzino, 1-0. Lewandowski, è buona la rimessa, è l'area di rigore, Lewandowski con la retrata per Milik. D'angolo, palla che spiove Mureanu, il pareggio della Moldova, subito trova il pareggio la Moldova al 29esimo, un minuto dopo il capitano Alexandru e Mureanu, 1-1. Tocco corto per il gran tiro, sorpreso Casillas, la Slovacchia in vantaggio per 1-0, Kučka con un destro violentissimo, batte Iker Casillas, ci riprova Hamsik, passaggio sulla destra, occhio in mezzo a Stock, che si prepara il cross, Stock di testa, rete, 2-1 Slovacchia, battuto ancora Casillas, il gol di Stock a 4 minuti dalla fine, è finita la partita, Azilina, la Slovacchia batte la Spagna per 2-1. Beh, insomma, è vero che l'Italia ha vinto 1-0 a Malta, pareggiato quasi, perché vincere 1-0 a Malta non è da raccontare ai nipotini, è vero che gli abbiamo fatto un mazzo così, che ci siamo lamentati, che siamo tornati improvvisamente molto depressi. Però devo dire che in questi due giri di qualificazione europee molto larghe, troppo larghe per essere belle, credibili, vere, di sorprese ne abbiamo vista più di una, ad esempio l'ultima, quella della Spagna, abbiamo visto qualche successo di portata storica, possiamo dire quasi politica, ma di politica parliamo anche dopo, perché ieri sera a Belgrado c'è stata la pagina più pazzesca ma interessante di questa di questo periodo europeo. Dicevo, qualche successo di portata addirittura politica, come quello della Polonia contro la Germania, la Germania stessa, campione del mondo, che si è persa o si sta perdendo o si perderà per strada, che ha pareggiato ieri 1-1 in casa contro l'Irlanda, e poi sempre ieri la Grecia di Ranieri che cola a picco con l'altra Irlanda, quella del Nord, e poi ancora l'Olanda che perde con l'Islanda, e il Portogallo che solo al 50esimo con il solito Cristiano Ronaldo, 50esimo secondo tempo, riesce a vincere la partita in Danimarca. Insomma, noi non siamo messi bene, siamo depressi, però non è che gli altri stiano ridendo a crepapelle. Ride magari la nazionale under 21 e ridono tutti quelli che non vogliono la moviola in campo. Meno male che la moviola non c'è, almeno ancora, altrimenti quel rigore per la Slovacchia solare rimangiato dall'arbitro scozzese McLean, per la cronaca due in pagella per il Corriere della Sera e quattro per la più generosa Gazzetta dello Sport e via andando. Ebbene, se non se lo fosse rimangiato, magari l'Italia under 21 di Biagio non sarebbe finita tra le magnifiche otto alla finale degli europei di categoria, e l'allenatore avversario, l'allenatore della Slovacchia under 21, alla fine della partita non avrebbe detto: italiani, sarete contenti, avrete vinto, e adesso fottetevi, traffico. Stacca Ronaldo al Convocati. Tutti convocati. Schranz, prende tempo Rugani, Schranz prova a entrare, Schranz a terra. Bianchetti in linea di scritto. Bianchetti ha messo giù Schranz, l'arbitro indica il dischetto, ora sta parlando anche con l'assistente. Vediamo cosa dice l'assistente, lui ha indicato il dischetto. No, annullato, non si tratta di calcio di rigore. Annullato, non si tratta di calcio di rigore. Sì, però... Sinceramente dal vivo le immagini lasciano poco spazio. Luca ha segnato l'angolo, però è un errore anche questo perché l'ultimo tocco è di Schranz cadendo a terra. Dedicato a tutti quelli che la moviola in campo, dicevo prima, ci fosse stata... Si era sul 2-1 a Reggio Emilia, gara di andata 1-1, partita di ritorno, playoff, qualificazioni, europei, under 21. E la Slovacchia, che tra l'altro stava giocando in 10, inferiorità numerica molto meglio dell'Italia, avrebbe avuto il suo sacrosanto rigore. Invece no, italiani, siete contenti, avete vinto, adesso fottetevi, ha detto il CT slovacco. Ciao Paolo Condò. Ciao Carlo, come stai? Io bene, anche il CT slovacco non se la passa male. Beh, insomma, avevano fatto una, stavano costruendo una gran cosa, perché in 10 sì. Passare da 2-0 a 2-2 contro una under 21 nella quale finalmente i talenti abbondano, anche se ieri non lo hanno dimostrato granché, a parte quel gol meraviglioso di Bernardeschi, sarebbe stata un grande risultato. Se vogliamo pensare che magari poi avremmo finito per prevalere 3-2, vabbè, poi vale tutto Paolo, poi vale tutto, però è chiaro che la moviola in campo con una decisione come il tennis, come la possibilità di chiamare, sì, di chiamare la cosa con una decisione per tempo, in questo caso avrebbe portato al calcio. Lascia stare il tennis, che poi ce n'è anche per loro, con quello che ho letto oggi. Dopo ne parlo. Buone non notizie da tutte le parti. Buone notizie dal fronte occidentale. Senti, tra l'altro Spagna fuori, sempre under 21, fuori con la Serbia, campione, sì, Spagna campione in carica, la Francia emergente. Anche la Francia è uscita 4-1 con la Svezia. C'è chi mi scrive: evidenziare le sfighe altrui per ridurre le nostre, siete dei fenomeni. Non è questione di evidenziare le sfighe altrui per ridurre le nostre. L'Italia ha giocato una pessima partita contro Malta l'altra sera, è inutile nascondersi, è stata una roba da vietare ai minori, come sai benissimo. Però abbiamo aperto programma facendo notare come ci sono state tante sorprese in questo allargatissimo turno di qualificazione europea, in questo europeo sì, allargato fino ai confini estremi, e che diventa in fondo una palla terrificante, perché di calcio non se ne può vedere quando ci sono avversarie così scarse. È questo che voglio dire. Sì, però se questo tuo discorso fosse arrivato dopo la prevista sequela di 5-6-0 da parte delle grandi squadre, allora avresti avuto perfettamente ragione. Sì. Però in un turno nel quale la Germania, campione del mondo in carica, perde la prima partita e pareggia in casa la seconda, nel quale la Spagna perde in Slovacchia, nel quale l'Olanda perde in Islanda, e attenzione all'Islanda, perché ti ricordi i discorsi che facevamo alcuni 3-4 anni fa su Colombia e Belgio come nazioni che stavano perdendo? Ecco, l'Islanda è ricca di giocatori di talento, potrebbe essere non una sorpresa ma un risultato abbastanza logico quello, sì, il 2-0 sull'Olanda. Ecco, premesso questo, insomma, i risultati sembrano fatti apposta, questi risultati, per legittimare invece il discorso che è stato fatto. Non è piuttosto che Paolo, non è piuttosto che sono quelli più scarsi che ti portano, mi usavo questa espressione, a fare il bagno nella marmellata, cioè a nuotare in maniera difficile. Tutti sono, ormai hanno dei bravi allenatori, li sanno disporre in campo mediamente bene, tutti corrono come dannati, e a quel punto è molto difficile, cioè sono quelli più scarsi che determinano la qualità della partita. Quelli più scarsi però ti devono a quel punto stimolare a crescere nella tua paura, perché è vero, sì, assolutamente, per giocare bene a calcio bisogna essere i due, però il povero usa le armi del povero. Certamente, per provare questo a sopravvivere, e quindi deve essere il ricco a mettere in campo tutta la sua ricchezza e non soltanto la parte, perché la pigrizia lo porta a portare, a mettere in campo soltanto la parte più facile. Ecco, devono mettercela tutta. Se poi tu vuoi un mio giudizio definitivo ed ecumenico su come il calcio dovrebbe organizzarsi, io ti dico che le prime, se tu porti l'europeo a 24 squadre, le prime 12 dovrebbero essere in qualche modo qualificate d'ufficio, le prime 12 ranking dovrebbero essere qualificate d'ufficio e giocare tra loro, però per rendere delle partite più divertenti. Anche su questo però tu mi insegni che le partite amichevoli, per quanto siano tra due grandi squadroni, molto spesso restano partite amichevoli. Poi la soluzione che ho letto da qualche parte potrebbe essere quella di, visto che i club governano ormai e dominano il mondo del calcio lungo l'intera stagione, potrebbe essere quella di concentrare nel mese di giugno tutte le partite di una nazionale. Sono d'accordissimo con come ha detto vecchia idea di Monsignor Platini, no? Sulla quale ci siamo sempre trovati praticamente d'accordo. Ti fai mondiali, europei, qualificazioni così tutte nel mese di giugno, e ogni anno arrivi a quel mese nel quale poi così c'è anche una minore incidenza degli infortuni, c'è una nulla incidenza degli impegni dei club che costringono tanti nazionali a far finta di star male e così via. Ovviamente nel conto di questo periodo ci si mettono anche i giocatori che, insomma, per dritte più o meno esposte ed esplicite dei club, magari la gamba ce la mettono fino a un certo punto. Certo. Senti, c'è l'altro problema. Ho un messaggio di Gianni, poi sento un altro Gianni che si chiama De Biasi, che ieri sera era a Belgrado, tra poco sarà collegato con noi. Complimenti alla federazione, ora farai un bel girone, federazione naturalmente europea, ora farai un bel girone con Israele e Palestina. Idioti totali, cosa pensavano si scambiassero baci tra Serbia e Albania, domanda Gianni. Si parla dell'Inter che va a Kiev, a Karabakh, ma non c'è nessun problema, non è stato visto nessun problema nel mandare l'Albania a Belgrado. Quando poi vedo, sinceramente, questa è una mia paura atavica, quando vedo su un campo dei Balcani una scena come quella che abbiamo visto ieri, a me viene in mente quel 13 maggio del 90 al Maximir di Zagabria, e tu sai a che partita mi riferisco. Certo. Io condivido il calcio di Boban al poliziotto, e secondo una parte della storiografia da lì nasce poi la guerra dei Balcani con Arkan, che era la superstar della curva della Stella Rossa di Belgrado, come Ivan Bogdanov è sempre presente sul posto di lavoro, non manca mai. Non pecca di assenteismo, assolutamente. Indubbiamente, io concordo con l'opinione di Gianni, nel senso che nel momento in cui tu fai i sorteggi ci sono delle cose che devi evitare possano accadere, come è stato fatto tra l'altro. Armenia e Azerbaigian, che sono ancora divise dal ricordo della guerra del Nagorno-Karabakh, non potevano finire nello stesso girone. Gibilterra e Spagna, cosa molto meno caliente rispetto alla situazione balcanica. E tu mi potrai obiettare, vabbè, la Serbia ce n'ha tante di squadre, di nazionali con le quali non può essere sorteggiata. Sì, però anche lì occorre fare il distinguo. Croazia, Serbia-Slovenia non procura, penso, ormai più nessun tipo. Problema. Serbia-Croazia, io sono andato a vedere Serbia-Croazia l'anno scorso, non c'erano tifosi croati, però ti posso garantire che il clima di Belgrado quel giorno e anche allo stadio era pesantissimo, un clima veramente bandiere bruciate. Io credo, Paolo, che sarà così per l'intera storia, cioè per tutti gli anni a venire. Sì, anche io è politicamente scorretto, tra l'altro adesso mi devo mettere a scrivere un commento del genere per la gara di domani proprio, nel quale denuncerò il mio essere politicamente scorretto, quella gente che c'è un odio fra quella gente, che è una cosa che noi non riusciamo nemmeno a concepire. È chiaro. Non riusciamo a concepire, per quello che è successo nelle guerre balcaniche di questi ultimi anni, ma anche quelle degli anni molto lontani. È una cosa, ci bisognerebbe prendere tutti i giovani di questi paesi, portarli in Australia, tenerli là finché non sono crepati tutti i vecchi, e poi riportarli e dire: bene, adesso che quelli che voi forse siete riusciti, ma finché crescono lì a molti di loro, non dico tutti per carità, ma a molti di loro, a un numero esorbitante di loro, viene insegnato ad odiarsi. Sì. La realtà è questa. Viene insegnato ad odiarsi ed è una mentalità, ed è una radice che si portano dentro. Guarda, io non faccio nome e cognome ovviamente, ma il mio grande amico, peraltro, che è di nazionalità serba, è un ex campione sportivo. Un giorno parlavamo del più e del meno, c'erano problemi tra Serbia e Kosovo. Lui mi guarda e mi dice: cos'è Kosovo? Kosovo non esiste. No, ma certo, ma sono le persone più piacevoli, sicuramente, più colte, preparate. Esattamente. Più così, che come cominci a fare quel discorso, vanno in tilt totale. E diventano una specie di Ivan Bogdanov sempre al lavoro. Per questo motivo ti dico che veramente voglio dire, una minima precauzione è quella di evitare la possibilità di scontri che poi dal punto di vista simbolico, c'erano 5.000 albanesi all'aeroporto a ospitare la nazionale stanotte. Dal punto di vista simbolico diventano nuove guerre quelle partite. Certamente, anche perché di albanesi, lo ricordiamo, ieri sera allo stadio non ce n'erano, se non il fratello del premier, che probabilmente, anche se Tare dice di no, poi sentiamo anche Tare, manovrava l'aeroplanino con la bandiera della grande Albania. Grazie Paolo, sempre un piacere. Un abbraccio. Grazie Ciao. Paolo Condò. 800240024, parliamo di questi fatti che sono vita, sport, politica, ma naturalmente siamo qui per parlare principalmente di sport e vi aspettiamo dopo la borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. C'è un drone che sorvola il Partizan Stadion, bandiera albanese con rivendicazioni politiche, match che Atkinson continua a tenere sospesa. Adesso Mitrovic tira giù la bandiera, si accende una rissa in mezzo al campo, Sciacca colpito alle spalle, entrano delle panchine, succede di tutto al Partizan Stadion. Io con il fratello del premier siamo amici e lo conosco molto bene, era in fianco a me allo stadio, lui con sé aveva solo un apparato fotografico a fare le foto allo stadio, è stato raggiunto dalla polizia in quel momento, gli hanno preso questo apparecchio, l'hanno controllato, l'hanno riconsegnato a lui. Poi dopo, insieme con tutta l'altra parte della delegazione albanese, è andato tranquillamente in aeroporto di Serbia. Tutte le altre notizie che sono state dette sono infondate, perché ero lì presente e l'ho visto tutta questa scena. Dunque la cronaca è il che avete sentito nella telecronaca per l'appunto di Sky, e poi il racconto di oggi di Iglitare. Su quello che è successo ieri al Partizan Stadium. Tanto c'è Franco Piantanida, che non è solo l'autore di questo programma, ma è anche un curioso esploratore del web, mi dà una notizia. Una notizia da verificare, eccetera, però certamente suggestiva. Pare, gira in rete questa notizia secondo cui De Laurentiis avrebbe venduto il Napoli. A chi? Ad Altani, lo sceicco, uno dei comproprietari del Paris Saint-Germain, uno degli uomini più ricchi del mondo, e l'ufficializzazione potrebbe essere data il 22 di dicembre a Doha in occasione della finale della Supercoppa italiana. Non avete niente altro da fare? No, abbiamo da riportare notizie che per ora sono da verificare, sono certamente molto suggestive, e sulle quali attendiamo pronta smentita, facciamo così, 800240024 e magari anche qualche commento da parte dei tifosi napoletani. Andiamo. Massimo Biella, Valerio da Roma, buongiorno. Massimo. Buongiorno, volevo chiedergli due cosette. Sì. Ok, la prima, cosa succedere per far sì che la Serbia venga esclusa da qualsiasi tipo di manifestazione sportiva? Seconda cosetta, sì. sul rigore di Slovacchia-Italia di ieri, mancato rigore a favore degli slovacchi. Allora, rimaniamo sulla prima cosetta, Massimo, okay. Poi andiamo sulla seconda. Ieri, insomma, questo, diciamo scherzo, ma non è uno scherzo, questo gesto non è stato fatto dai serbi, cioè non è stato architettato dai serbi, è stato uno sberleffo ai serbi che erano allo stadio. Sappiamo bene come ci siano antiche e profondamente radicate tensioni tra quei popoli, tra quei paesi, e dunque quello che è successo lo vedremo con successive sanzioni. Però in questo caso i serbi hanno subito, diciamo, un oltraggio, diciamo un'offesa, no? Per mano di chi non è chiaro, visto che non erano ammessi tifosi albanesi allo stadio. Seconda cosa, sì, su Slovacchia e Italia, secondo me, perché negli ultimi anni, per quale motivo l'arbitro assegna il calcio di rigore, dopodiché va a dialogare con il suo collaboratore e viene annullata la sua primaria decisione, esclusivamente perché viene dato dall'AIA in generale troppo potere ai collaboratori. Tanti anni fa assolutamente mai si sarebbe sognato un arbitro. Ho capito, però arbitro. Allora li vogliamo che abbiano più potere, che quindi aiutino gli arbitri a prendere decisioni corrette, o non li vogliamo, Massimo? Collaboratore, io faccio l'arbitro da 18 anni, comunque il collaboratore di linea è nato ed esclusivamente per il fuori laterale di propria competenza e soprattutto per l'offside. Dopodiché, se lui prende visione di un gioco violento, di un qualche azione violenta consumata che l'arbitro primario non ha visto, allora ok, va benissimo entrare in merito. Ma quando c'è un fallo all'interno dell'area di rigore con un arbitro che è 10 metri dietro e si indirizza verso il dischetto del rigore perché per lui era calcio di rigore e lui va ad intervenire su una decisione del genere, sicuramente quell'assistente lì non so quando rientrerà in campo europeo, ma comunque Certamente è stato un errore. Ma d'altra parte, insomma, se vogliamo che gli arbitri siano connessi con auricolari nel modo più completo e compiuto possibile tra di loro, diventa quasi fatale, no, questa forma di comunicazione. Detto questo, il rigore era netto, è stato decretato giustamente dall'arbitro, è stato tolto per questa coda di questo overrule, ed è stato semplicemente un ulteriore errore. Stavolta Rocchi non c'entra, Totti non c'entra, non c'era in campo la Juventus, non so se c'entri Tavecchio, magari qualcuno avrà anche questa fantasia. Però di fatto siamo stati, la nazionale Under 21 è stata di fatto favorita in maniera consistente da questa decisione arbitrale. Valerio, Roma, ce la mettiamo in tasca, ne prendiamo atto. Dica. Salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo tornare sulla partita Serbia-Albania. Sì. Volevo chiedere se alla UEFA si occupano soltanto di diritti televisivi, ma siccome spendono un sacco di soldi, un consulente storico potrebbero pure chiamarlo per dare qualche consiglio. Che non è che parliamo di una cosa successa nella prima guerra mondiale, parliamo di cose successe 20 anni fa, ma non una guerra normale, non è la guerra Italia-Austria. Si combattevano due eserciti, fatta la pace, Italia-Austria. Valerio, come dicevamo prima, sono radici di odio che vengono da lontano, quindi non è nemmeno una questione temporale, di vicinanza temporale. Pulizie etniche, scontri religiosi, cioè ci sta di tutto, un coacervo di problemi, non è lo scontro Italia-Austria, finita la guerra. Amici come prima, anzi alleati magari dopo. Sì. Cioè, è un'altra guerra quella. No, quella dei Balcani. Quella dei Balcani è una, insomma, è un'area in cui problemi di intolleranza, problemi di odio razziale, problemi di questo tipo esisteranno sempre, sono sempre esistiti e continueranno ad esistere al di là del tempo che è trascorso tra la fine della guerra, del decennio trascorso, dei 15 anni, dei 20 anni trascorsi tra la fine della guerra e ora. Quindi se questa partita si rigiocherà tra 15 anni ci potranno essere gli stessi problemi, ma come diceva prima giustamente Paolo Condò, sono andato a vedere Serbia-Croazia, non c'erano tifosi croati ammessi allo stadio, come ieri i tifosi albanesi non erano ammessi allo stadio. Già questo è una ammissione di difficoltà, quantomeno. Ebbene, quel giorno non è successo niente, quel giorno di Serbia-Croazia, però è chiaro che c'era, tra bandiere bruciate ed episodi di intolleranza varia, c'era un clima difficilmente sopportabile. Cristian Udine, buongiorno. Buongiorno, due cose velocissime. Uno riguardo Slovacchia-Italia, nel senso che l'errore dell'assistente, che di errore ascrivibile interamente all'assistente si parla, è dovuto a un fatto non di cattive interpretazioni o direttive dall'alto dell'AIA o della UEFA, semplicemente l'errore è stato umano e l'arbitro ha dimostrato di non essere di altissimo livello, cambiando la decisione che alla fine dei fatti era corretta la sua, quindi non è un problema dell'AIA, è un problema dell'assistente, e quindi questa terna evidentemente verrà fermata. E con Rocchi come la mettiamo? Con Rocchi io no, perché se allora se in campo internazionale diciamo vabbè, semplicemente un errore, un misunderstanding, cosa ci volete fare? Che i fratelli slovacchi anche gli errori, perché errori solo in Italia si può parlare di errori, perché sono semplicemente delle interpretazioni al limite errate dopo almeno 2-3 giorni di contro moviole. Ora sì, pensare di fare un caso politico per alcuni centimetri non è un po' capzioso ed è tipicamente italico. Mi sembra esagerato quello che è stato fatto, perché sostanzialmente a Torino tutti i discorsi sono stati fatti dopo Torino, cioè parlare di partita falsata, di campionato falsato, è forzato, però sono errori che portano con sé mille polemiche in campo internazionale. Per fortuna questo non succede. Noi ieri sera abbiamo semplicemente ricevuto un regalo dall'arbitro, oppure una botta di culo, mettetela come vi pare, io propendo per la seconda perché mi piace di più. E ne abbiamo approfittato, abbiamo poi alla fine battuto 3-1 i fratelli slovacchi, andiamo tra le magnifiche 8 d'Europa, dove, ripeto, non ci sarà la Spagna campione in carica, non ci sarà la Francia emergente. E bene così, che dobbiamo fare? Ci prendiamo le reprimende così la rabbia degli slovacchi, finita, non nient'altro da dire. In Italia invece non è questo il modo in cui normalmente si reagisce. Strade. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: fare picchiare i giocatori dai tifosi. Dov'è quel signore che ha scritto respect come slogan dell'UEFA? È un caro amico di lunga data e l'abbiamo disturbato anche oggi, perché pure sarà un giorno difficile. Gianni De Biasi, che ieri sera era al Belgrado alla guida della sua Albania. Ciao Gianni. Ciao Carlo, saluto tutti i radioascoltatori. Come stai? Abbastanza scosso. Ah, cosa è successo lì? Mi racconti quello che hai visto tu e quello che hai percepito tu. Sì. Cioè, quello che ho percepito io è un clima di grande ostilità, due paesi che non si amano, per usare un eufemismo, e già in termini di sorteggio dissi che questa cosa non doveva avvenire, come non deve avvenire per l'UEFA l'accoppiamento tra l'Azerbaigian e l'Armenia, come non avviene tra Gibilterra e la Spagna, come non avviene tra Russia e Ucraina. Noi invece siamo finiti nello stesso girone della Serbia, una partita ad alto coefficiente rischio, perché c'è un odio apatico tra i due paesi, e credo che questo sia l'aspetto che ho notato di più. Siamo arrivati allo stadio, già al sopralluogo c'era veramente una tensione notevole, una tifoseria che tirava di tutto in campo, delle cose pazzesche da questo punto di vista qui. Quindi era già tutto previsto in qualche misura? Sì, credo che sì. O prevedibile? Si aspettava solo la scintilla per dare il via alle cose, perché l'unica cosa sulla quale mi sento di spezzare una lancia in favore dei serbi e dei giocatori, in particolare Kolarov, Ivanovic e Matic, sono stati veramente bravi da questo punto di vista. Qui hanno capito la situazione, e hanno cercato di darci una mano. Questo sicuramente lo posso dire. I tuoi giocatori sono stati aggrediti? Io vedo delle foto in giro. Sì. No, sono stati aggrediti, ma allora io ho 5 giocatori aggrediti, 4 che stavano giocando. Uno è Lorizzano, il nostro capitano, l'altro è Legnani, l'altro è Giacca e l'altro ancora è Cucheli, colpiti, e tutti, il delegato UEFA ha visto i danni subiti dai giocatori. Non dimentichiamo che tra parentesi c'era dentro il terreno di gioco un certo Ivan che dovrebbe essere lontano per altri anni. Sì, cioè, è tornato al lavoro. Io questo credo che sia uno degli aspetti sui quali dobbiamo tornare a pensare a vedere alcuni aspetti che lega lo spettacolo tra virgolette calcio. Ma aggrediti da chi, Gianni? Aggrediti dai tifosi che sono entrati e anche da alcuni con la pettorina da Stewart. Lorizzan, io ho una foto che viene colpito da un pugno di un energumeno, sì, con la pettorina colorata da Stewart. Sì. Cioè, io dicevo prima, parlavo con Paolo Condò, quando vedo queste scene su un campo balcanico, a me viene sempre in mente quel calcio di Boban, 13 maggio 90, il Maximir di Zagabria con la Stella Rossa a Belgrado, eccetera, eccetera. Sono episodi storici, però io credo che davvero certe partite, è brutto dirlo, ma non andrebbero giocate. No, sono d'accordo anch'io. È chiaro che a quel punto lì il calcio, tra virgolette, in senso lato, perde. Però bisogna anche prenderne precauzione, perché non si può aspettare che succeda il caso eclatante per dire o per prendere provvedimenti. Io credo che lì ci sia stata una leggerezza nel valutare questi aspetti, e credo che noi ne abbiamo subito le conseguenze. Abbiamo giocato in uno stadio inadeguato, dove in un secondo un tifoso entra dentro, nonostante il cordone di polizia tutto intorno allo stadio, lì c'erano tifosi che venivano dentro da tutte le parti. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie, un saluto grazie a tutti. Grazie, ciao. Un abbraccio, ciao. A Gianni De Biasi, allenatore dell'Albania. Antonio da Napoli, ha sentito? Sì, sì. Che dice? Queste partite Albania, Serbia, Montenegro lo devono fare quasi una all'anno, per vedere quanti minuti riescono a giocare. Sì, giusto così come prova. Sì, no, così il tifoso ignorante medio torna a casa e dice: "Caccio, la volevo vedere quella partita, come finiva." Così se ne va con un malincuore. Cioè, questo è tra virgolette. Questa è una soluzione meravigliosamente napoletana. Una all'anno e vediamo quanto dura. Quanto dura. Poi, per quanto riguarda De Laurentiis, eccola là. Allora, se vende il Napoli allo Sceicco? No, oggi ti confermo che il Napoli ha messo l'annuncio per la vendita. Perché De Laurentiis ha capito il potenziale di Napoli e della città di Napoli, però non ha passione per il calcio. Ottimo manager, ottimo presidente, tutto, però non è un Moratti, non è un Berlusconi, non è neanche un Agnelli nonno. Vabbè, ma abbiamo fatto degli esempi non da poco, non è che non credo che Pallotta sia nato con la maglietta della Roma addosso, non credo che Toir sognasse l'Inter tutte le notti, non credo che lo sceicco Altani, che qualcuno dice potrebbe prendere il Napoli, abbia il Napoli nel cuore. No, cioè, non è che c'è il business nel cuore, è un'altra cosa. Oggi c'è il business. Addirittura non sono neanche all'altezza di Gaucci né di Gragnotti, che si sono indebitati per le squadre. Cioè, quindi qua è romanticismo. Ma meno male che non sono all'altezza di Gaucci e di Cragnotti. Mamma viva Dio! De Laurentiis è una persona per bene ed è anche un signor imprenditore che penso che per il Napoli abbia fatto qualcosina negli anni. Quindi non sarei così core ingrato nei confronti di De Laurentiis. Poi vediamo se davvero Napoli è in vendita, se davvero verrà venduto. Intanto grazie Antonio. Convocati. Ecco Angelo da Napoli, 800240024, questi tutti convocati, sono Carlo Genta, Franco Piattelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione, ci siamo tutti, ma c'è anche lui, siamo qui fino alle 4 tutti i giorni. Ho detto tutto? Angelo, fate due risate, li vedo tutti seri. Angelo da Napoli. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo vendere Napoli, mettere Napoli sul mercato. Via De Laurentiis. No, io sono un pro De Laurentiis, veramente. Uno anch'io. Dei pochi napoletani pro De Laurentiis. Io non sono napoletano, ma sono un pro De Laurentiis anch'io. Dica. Ritengo che De Laurentiis abbia portato il Napoli a dei livelli che sono di eccellenza negli ultimi 4-5 anni, cosa che Napoli può vantare poco nella storia, ma questi napoletani, voglio dire, lo dimenticano troppo facilmente. E credo che una vendita da parte di De Laurentiis, se anche avverrà in questi termini come dicono, sia una vendita fatta in maniera così positiva e pulita, perché è stata una gestione aziendale, societaria pulita, non come quella casomai fatta. Sentivo qualcuno prima parlava di Moratti. Moratti ha avuto tutte le difficoltà a vendere l'Inter, perché c'erano prima 200 milioni sì, di debiti da... Certo, c'erano diversi problemi con i quali... Chi subentra nel Napoli può già investire, a parte in una squadra che non ha bisogno di chissà che cosa. Quindi, caro mio Angelo, me la racconti giusta, è un po' solleticato dall'idea... Cioè, con tutto il bene che possiamo volere a De Laurentiis. Grazie, maestà... Se vende il Napoli, vende una società pulita e già comunque competitiva, però se arriva lo sceicco, mica ma lo sceicco oggi viene, poi se ne va un giorno non ha l'amore verso la squadra. Questo ho capito, concetto. Ma anche De Laurentiis un giorno se ne va, magari. Non so. Questo capita, fa parte delle cose della vita. Napoli comunque è un grandissimo bacino d'utenza, lo sappiamo, anche a livello internazionale, è una città molto conosciuta ovunque, eccetera, è un brand come può essere quello della Roma, sono tutte questioni, anche Pallotta magari un giorno se ne va, ma intanto... Per cominciare a parlare prima cosa di coloro i quali impediscono a questa città e a questa squadra di crescere, cioè praticamente chi non dà i permessi per lo stadio, per tutte quelle cose che invece la Roma ha avuto, la Juventus ha avuto, e chiunque dovrà mettere mano a queste la Roma, cose, la Roma non avrà questo... avrà la Roma avrà forse, la Juventus ha avuto, ma ho visto anche il progetto, pensavo fosse già definitiva, voglio dire la cosa. Ci sono altre cose da valutare, e comunque io sono il massimo del santomasismo. Io fino a quando non vedo uno stadio nuovo come vedo lo Juventus Stadium a Torino, nel quale tra l'altro dovrebbe giocare la nazionale, anche su questo c'è polemica, questo è un inciso che vi faccio, sapete che c'è questa polemica per la partita con l'Inghilterra di marzo, si gioca a Torino però all'Olimpico casa del Toro, allo Juventus Stadium casa della Juventus, la Juventus non è poi così amica di Tavecchio, della federazione, è un contenzioso in sospeso, eccetera eccetera, ma chi vuole giocare dove questa partita? A noi risulta ce l'ha detto un cinese passando per strada, che sia la stessa Federcalcio a premere per giocare Italia-Inghilterra allo Juventus Stadium. Chiudo la parentesi. Io credo allo stadio di Torino perché lo vedo, credo a quello di Udine perché è praticamente finito, credo allo stadio di Reggio Emilia, non credo ancora a quello della Roma perché ho visto dei progetti un sacco di proiezioni virtuali, di dichiarazioni di intenti, ho visto però anche dei problemi da parte dell'amministrazione, ho sentito dei vedremo e quindi a quello ancora io non credo. Poi stadio di Napoli non penso che lo vedrò mai, quello di Genova di cui Ferrero ci ha fatto vedere meravigliosi bozzetti nemmeno. Ma chi lo paga questo progetto e questo stadio? Pantalone, c'è sempre Pantalone lo paga, perché questo qui non è un fatto chi lo paga, è chiaro che ci saranno dei finanziatori oltre me, e il comune ci deve dare i terreni in concessione per 99 anni, perché lo stadio rimarrà ai genovesi a Genova e non è che ce lo portiamo a casa. Pantalone, se Pantalone si chiama Altani io non lo so, comunque gira questa voce non confermata, anzi siamo in attesa di prima o poi di smentite, e se smentita non arriverà allora quella sarà davvero la vera notizia. però è chiaro anche che insomma, Torreira è arrivato a Milano, voglio lo stadio. Pallotta è arrivato a Roma, voglio lo stadio. Ma è normale, questa è la normale logica gestionale manageriale dello sport nell'era contemporanea. Il problema è che siamo in Italia, dove è anche Andrea che si trova a Modena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Grazie. Io più che altro sono uno sportivo, ho giocato, ho 64 anni, ho giocato fino a 55, ho fatto allenatore, giocatore gli ultimi anni. Di cosa? Per cui mi interessa più di calcio, No? Cioè, vabbè, anche un po' di pallavolo, perché noi qui a Modena è come, certo. Come parlare, di calcio a Torino o altre cose. Insomma, quindi come parlare di basket a Varese o di donne a casa di Pozzecco, sì, lo sappiamo. O anche a Bologna, visto i nostri cugini che sono molto forti nel basket, insomma, erano. Infatti godiamo un attimino come Geminiani, comunque vabbè, a parte le battute, l'ironia di cui siamo veramente padroni, no, a me interessavano due cose: il discorso del potere, mi ricordavo a De Laurentiis, e l'altro quello degli stadi. Allora, per il potere, cioè, io De Laurentiis, insomma, voi giornalisti poi rincarate, no? Per quando le persone sono famose o meno, cioè, li mettete su degli altari, però mi sa anche un po' saputello quando le volte si parla, scocchioso. Andrea, è vero, ma insomma, a me è simpatico, non è che lo metto sull'altare, sì. Posso dire che mi è simpatico? Vabbè, ho usato un termine più eclatante per dare un po' l'idea di quello. Sua che maestà, dire, lei, adesso, sì. Era volutamente forzato, dai, sua maestà Sua maestà De Laurentiis, il re sole della cinematografia mondiale. Vuole che vada avanti? Se vuole vada avanti. No, semplicemente a me De Laurentiis è simpatico e è stato fin qui un grande presidente del Napoli, punto. Però a me ha lasciato molto da pensare, perché io sono uno sportivo, seguo il Modena e io ebbi l'opportunità, la fortuna, se vuole, nell'ultimo campionato di B che fece il Napoli, di essere per il Modena in tribuna centrale lì proprio a San Paolo. Siccome dopo l'ennesima, perché per noi ormai c'è un'ironia, comunque noi ci sono sempre due pesi e due misure, e quindi dopo l'ennesima fischiata contro di noi mi rivolsi lì e dissi: ma è possibile avere mai un arbitro un po' decente per noi piccole squadre? No. Che mi disse: no, fatevi il potere voi. E vabbè, e quindi ho incazzato e me lo sono portato a casa. Per quanto riguarda lo stadio, velocemente, sì, volevo precisare che Reggio Emilia, i nostri altri cugini, il buon Squinzi si è fatto uno stadio già trovato, perché viene dal fallimento di Dalcin e compagnia bella. Mentre il nostro stadietto di 20-22.000 spettatori di nuovo rinnovato lo siamo fatti noi. Noi di Modena, però ovviamente siamo una città piccola e non abbiamo il potere degli Squinzi né il potere degli De Laurentiis, eccetera eccetera. Insomma, quindi volevo un po' precisare un po' questa cosina. Sì, no, ma comunque voglio dire, poi lo stadio deve essere anche dimensionato a chi lo abita, no? Cioè, io sono dell'idea che non ci vogliono stadi di dimensioni ciclopiche, ci vogliono degli stadi abitabili. E l'esempio ricade sempre su quello di Torino e spero anche tra un po' su quello di Udine, degli stadi abitabili e possibilmente pieni di gente, come a Torino ad esempio accade sempre. Quindi quello, perché questa è secondo me la dimensione dello sport contemporaneo, ed è per questo che l'imprenditore straniero, adesso vedremo Tacopina a Bologna, il vecchio comunale di Bologna è una cosa che, no, monumento nazionale, ma sui monumenti, come diceva il vecchio, antico, meraviglioso Dino Meneghin, sui monumenti ci cagano i piccioni. Quindi va bene il Dall'Ara come monumento storico, ma non è certamente uno stadio praticabile per il grande calcio del 2014. Quindi si tratta di una nuova mentalità, di una nuova dimensione, che però in Italia è difficilmente praticabile per un miliardo di motivi che, vivendo in questo paese, conoscete meglio di me. Dennis, è molto divertente da mettere in un film. Ecco, è vero, mi dimenticavo che io sono stato scritturato da De Laurentiis, quindi non posso che parlarne bene, così come sono sempre sotto contratto per parlare bene di Mourinho e Balotelli, vero Piantarino? Abbiamo ancora il contratto, no? Sì? Formazione per lui eccezionale questa sera. Perfetto. Siamo in scadenza a giugno 2015. Tennis Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. A lei. Essendo albanese, volevo fare un commento sulla partita di ieri. Sì. Con tutto quello che è successo ieri allo stadio, eccetera, con il grande Ivan, il terribile, ve lo potete immaginare se c'erano allo stadio pure i tifosi albanesi, che sarebbe successo? Il grande non Ivan voglio, non sarebbe voglio, stato così grande. Non voglio nemmeno provarci a immaginarlo. Ecco, è meglio. Non e poi voglio. La partita di ritorno, che succederà? La partita di ritorno verrà giocata certamente in campo neutro. Certamente. Perché sicuro in Albania non la faranno giocare. Non la faranno giocare di sicuro. Così come la partita di ieri sera, che come ben sa non si è conclusa. Non doveva no? essere giocata. No, non doveva essere giocata, su questo siamo d'accordo. Nel senso che ci vuole anche Grano Salis nel sorteggio dei gironi, non si può affidare totalmente ai capricci delle palline questi confronti per ragioni spiacevoli, per ragioni a volte aberranti, come nel caso di questo profondo odio razziale. Per queste ragioni bisogna farsene una ragione, e allora queste partite, questi incroci non ci possono semplicemente essere. Perché io ho sentito pure che cosa ha detto il CT, gli unici che ne hanno subiti sono stati i 5 giocatori albanesi presi a botte. A dire la verità De Biasi ha detto che il comportamento comunque dei giocatori serbi, ha citato i giocatori serbi che si sono resi protagonisti comunque di gesti di fair play, il comportamento dei giocatori non mi è sembrato particolarmente censurabile. Poi è chiaro che le hanno prese dai tifosi entrati in campo, le hanno prese dagli steward con la pettorina, questo ha detto Gianni De Biasi, e comunque era una situazione già dall'inizio non sostenibile. Dunque queste partite, spiace tanto, ma non possono essere semplicemente non possono essere giocate, Dennis. Quindi il ritorno, non so, verrà giocato in campo neutro o verrà giocato a porte chiuse. Queste sono le classiche soluzioni che di norma vengono adottate, così come questa partita verrà ripetuta. Tra l'altro l'Albania sta andando molto bene, come sapete, ha vinto in Portogallo, è in lizza per andare agli europei, e è un confronto anche calcisticamente molto importante. Questo verranno giocate nelle segrete delle porte chiuse, nelle prigioni del calcio. Luca, Bologna. Sì, buongiorno, salve, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Niente, io volevo solamente dare due spunti per sapere cosa ne pensavate, perché è un po' che ci penso, perché io penso che intanto lo sport del calcio deve essere uno sport, quindi divertirsi, e quindi secondo me ho questa idea qua. Allora, la moviola in campo o comunque tutto quello che è tecnologia ci deve essere per quanti soldi girano intorno al calcio, secondo me, solo per questo motivo, perché se no potrebbe anche non esserci e accettare l'errore dell'arbitro se girassero meno soldi. L'altra cosa invece che pensavo era, ma perché non si pensa al fatto che per evitare partite come Atletico-Juve, cioè tutte e due sullo 0-0, attendiste, quindi brutte, Champions League, stavo pensando alle partite in casa, l'unica maniera per ottenere dei punti era vittoria, quindi pareggio o sconfitta, 0 punti, e quindi tu in casa devi per forza vincere. Il punto del pareggio ha solo quella in trasferta. E Luca, non resta che prendere carta e penna e scrivere una bella lettera a Blatter e a Platini, perché il problema da noi è difficilmente risolvibile. Non dobbiamo mai dimenticarci che ogni novità, ogni innovazione, ogni idea, dalla moviola in giù o in su, non è che può essere decisa così sul fronte interno nazionale o del singolo campionato. Sono rivoluzioni, perché questa è la parola corretta, che devono essere decise a livello mondiale e quindi praticate con regole uniformi ed in maniera uniforme. Di conseguenza ogni idea è quella buona, dall'abolizione del fuorigioco ai tre angoli un rigore, va tutto bene. Detto questo, non dimentichiamo mai che non possiamo autogovernarci a seconda della nostra particolare forma mentis. Allora, domani a che ora giochi? Possiamo parlare di questa partita? Dipende. Per me dipende da come si sviluppa. È importantissimo vincere il primo set e, se possibile, andare un break avanti nel secondo. È possibile anche in questo caso dare molto di più. Risposta di un tennista un interlocutore Manlio Bruni, il commercialista di Beppe Signori che conosciamo bene, l'altro è Daniele Bracciali, conversazione su Skype. Bracciali risponde: se lo conoscevo avrei potuto farlo, così non posso. Perché è troppo scarso? Così mi hanno detto, risponde il tennista, ma non lo conosco. Ma quanto vale l'operazione? Di solito ci offrono 50, scrive Bracciali. Poi dipende, comunque domani preferisco giocarla, magari la prossima volta. Bruni: ma guarda che 50 potrei farcela, per prova, per domani, ma è indispensabile vincere il primo set. Anche se un'altra volta, se lo so per tempo, possiamo dare di più. Ma Bracciali spiega: molto importante che quello che ci gioco lo conosca, così ci parlo prima. Perché anche dirti che vinco il primo set non è facile. Risposta: però se lo vinci siamo a posto, 50 per te, 50 per un set, non mi sembra male. A questo giro, no, a questo giro non gioco. Questo giro gioco normale. Risposta di Bracciali. Possiamo chiamarle, Marco Mensurati, che ne scrive su Repubblica, racchette sporche o è un po' più di fantasia? No, no, racchette sporche va benissimo, anche se purtroppo temo che non siano solo le racchette il problema. Insomma, anche le palline. Anche le palline, si le tiene, e anche temo altri sport, insomma. Non, da quando è cominciata questa inchiesta di Cremona ne abbiamo viste di tutti i colori, e temo che ne vedremo ancora. Sì, in questo caso coinvolto il tennis, cosa assolutamente inedita. Non, ci sono stati molti problemi intorno al tennis, ma problemi di questo tipo no. Questa conversazione tra, ripeto, Daniele Bracciali e il famoso Manlio Bruni, commercialista di Signori, è avvenuta via Skype, e insomma è lì che si commenta da sola. Siamo a un filone, siamo a un inizio, siamo al vaso di Pandora, dove siamo? Siamo sicuramente a un inizio, perché gli inquirenti, sia la magistratura sia la polizia, si è gettata a capofitto su questo filone, non trascurando ovviamente il resto del lavoro, perché devono chiudere le inchieste avviate già sul calcio, che però insomma quelle sono già più avanti, molte hanno già patteggiato, specialmente quelli del filone di Bari, e altri lo faranno presto. Quindi adesso parte questo nuovo filone, a giudicare dal punto di partenza, che è piuttosto esplicito, sembra promettere molto molto bene. È ovvia la riflessione che una delle difficoltà principali del calcio scommesse era che per raccomodare una partita serviva un bel gruppeggio di persone, almeno 3 di qua, 3 di là, 4 di qua e 4 di là. Col tennis ne basta uno solo. Sai cosa mi sorprende nel leggere questa intercettazione? Mi sorprende l'assoluta normalità della conversazione. Ma guarda, noi di solito prendiamo 50, se l'altro lo conosco gli parlo prima, quindi non c'è problema, sto qua non lo conosco, quindi non sono in grado di garantirtelo, magari facciamo la prossima volta. Mi sembra, cioè, che mi sorprende è la veramente la familiarità che si può avere in questo tipo di dialogo. Le travede il biscotto, diciamo, una cosa del genere, insomma. Tu cosa dici? Abitue. Sì, sono sicuramente toni e modalità inquietanti, che però sembra proprio che così lascino intravedere un sistema piuttosto che un singolo giocatore che faceva qualcosa di storto. Ma questo in qualche modo l'abbiamo già visto anche con il calcio scommesse. Quando era cominciata l'inchiesta si pensava che fosse appunto Beppe Signori e un altro paio di giocatori AGE, e un altro paio di rubagalline, non proprio di successo, che avevano messo in piedi un meccanismo. Peraltro è in base a questo tipo di approccio che la Federcalcio promise una tolleranza zero. Quando poi si resero conto che lo facevano praticamente tutti, che era culturale il problema, la tolleranza zero non erano più in grado di rispettarla, e quindi hanno mandato tutto quanto a traluci e vino. Ora l'impressione, dal tono, dal tenore, che mi sembra anche a me uno degli aspetti più inquietanti di questa intercettazione, mi sembra che siamo da capo a 12, c'è un sistema che forse andrà un attimo esplorato. Sì, poi si comincerà ad allargare il discorso alle famose centrali asiatiche, eccetera, eccetera, no? Sì, ai conti correnti all'estero e queste cose qui. Ma quello che io mi chiedo è il mondo dello sport. Oggi abbiamo fatto la riunione di redazione, insomma, questa è una cosa di cui forse non è educato parlare, perché le riunioni di redazione dei giornali sono segrete. Però insomma ci siamo resi conto che il settore dello sport ha più giudiziaria della cronaca. Certo. Il doping, le scommesse, i falsi in bilancio, queste cose qui alla fine. Ed è per questo, caro Marco, che dobbiamo saperne un po' di tutto, dobbiamo sapere di leggi, dobbiamo sapere di farmacia, dobbiamo essere avvocati, dottori, certe volte psichiatri, psicanalisti e poi non so, se ti viene in mente qualcos'altro dillo tu, siamo davvero il top assoluto. Quanto un tempo bisognava saperne di gastronomia quando si faceva agenzia sportiva. Bisognava sapere, preferirei. Io parlo di solito che di gastronomia ne sa e anche di molte altre cose, però veramente nel mondo dello sport poi c'è Pantani, il lavandino spostato, bisogna essere anche un po' RIS, criminologi, detective, che meraviglia. Grazie Marco Mensurati, buon lavoro. Grazie ciao. A voi. Ciao. Mirko da Mozza sta lì, borsa. Finito come i vecchi tempi all'Hollywood, ti dico solo questo. Grande, grande, grande posto. Dimmi una cosa, l'ultima cosa, dove va Varese? Dove andrà Varese? Spero che continui ad andare all'Hollywood la domenica sera, perché vuol dire che ci sarà qualcosa da festeggiare, ecco. Tutti convocati. Tutti convocati, anche Mirko da Monza, Giuseppe dalla provincia di Brindisi. Buongiorno Mirko. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. Niente, io volevo sprecare due parole per Blatter e due per De Laurentiis. Solo due, bastano due. Allora, due le bastano. La prima per Blatter, io intanto gli vorrei non valgono le parolacce, No, no, assolutamente, okay. Parolacce non okay. Ce ne sono, discorsi penso sensati. Sì, sì, sì, no, mi hai detto due parole per Blatter e due per De Laurentiis, mi sembra un pochino. Dica. Io volevo chiedere al presidente Blatter dove è stato dopo i 30 anni che ha passato l'Italia sotto la famiglia Agnelli, dopo sotto la famiglia Berlusconi, quando la politica c'entrava con lo sport. Questo volevo menzionarlo. Me la spiega meglio? Sì, glielo dico chiaro e da tifoso, sì. Quando mancavano i rigori per la Juve la domenica partivano i cassaintegrati. Io volevo chiedere. Ah, ho capito. Ecco. La seconda è per De Laurentiis. E questa era per Blatter. Questa era per Blatter. Sì. La seconda per De Laurentiis è, mi sembra che in questi periodi di crisi la tendenza sia non farsi un potere proprio, ma farsi uno stadio. Mi sembra che la tendenza delle squadre che vincono sono più quelle squadre che tendono a farsi lo stadio, cioè sì. Procacciare lavoro, procacciare sì. Soldi, sì. Spendere soldi, avere dei rientri. Sì. A me sembra che stia funzionando in questo sistema. Punto, ecco, questo non è le mie due. Ma secondo lei è perverso questo? È perverso, sì, certo che è perverso, spero che non sia così, io me lo auguro, però a quanto mi sembra che i risultati combacino molto con, allora, no, con però, vedrà che quando l'Inter inizierà a costruire il suo forse porteremo a casa un'altra coppa. No, ma Mirko, il discorso è che se questa è perversione, è una perversione europea, mondiale, cioè è un qualcosa che accade... ormai in tutto il mondo, no? Gestire la cosa sportiva, la res sportiva in questa maniera mi sembra a questo punto quasi ineliminabile, cioè non è il sistema italiano ad essere gestito come era 50 anni fa, con tutti con molti più problemi di quanti ce n'erano. Cioè io non trovo nulla di perverso, per l'appunto, nell'imprenditore italiano o straniero che abbia l'intenzione di costituire dei cespiti immobiliari, dei valori, di avere uno stadio di proprietà per una squadra di proprietà e poi eventualmente vendere questo stadio di proprietà con questa squadra di proprietà, magari facendoci anche dei quattrini. Insomma, tutto questo è business, ma accade dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dall'Inghilterra alla Germania, alla Spagna. Da noi invece funziona in maniera un po' diversa. Poi se vogliamo usare l'ironia, allora speriamo che lo stadio dell'Inter, ma anche quello del Milan, arrivino presto, così magari avremo un campionato più equilibrato, e sto con lei da questo punto di vista, no? Mi pare. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, senta, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo parlare della bufera che ha colpito il tennis scommesse, diciamo. Volevo capire, ma secondo lei c'è un rimedio, anche perché il tennis è facilmente truccabile, visto che sono uno contro l'altro. Ecco, quali sarebbero i rimedi? Perché le tentazioni ormai in questo mondo sono troppo forti. I rimedi sarebbe quello di i rimedi sono quelli di beccarli e squalificarli a vita, cioè non è che non ne vedo molti altri. Cioè io con secondo me la scommesse, doping eccetera sono peccati mortali nello sport, quindi se uno viene beccato da questo punto di vista, cioè ha commesso peccato capitale e paga con la pena capitale sportiva, cioè la radiazione, ma senza tanti se e ma. Abbiamo le prove, abbiamo la certezza, abbiamo un giudizio, un giudicato, ciao, non ci sono sconti. Vediamo il suo tempo di spinta. Bellissima la fase di carico che ha avuto, una buona esplosione quando è stata ora di spingere la slitta all'indietro. Il tempo gli conferma quello che abbiamo visto, tutto l'impegno che ci ha messo. Ha perso qualcosina da Langenan, aveva 457 millesimi di vantaggio su Langenan, che è il primo in classifica in questo momento. Lo ripetiamo, Langenan nella prima fase della pista l'inerzia della sua grande partenza. Bellissima questa parte, ha fatto una cosa rotondissima, non ci sono stati strappi, guida lì, da vero campione che ha la sensibilità per poterla portare così. Questo intertempo lo attendiamo con impazienza, 456 millesimi di vantaggio, se Zöggler lo mantiene è sul podio. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, e primo Zöggler sicuramente a medaglia, Armin Zöggler, festeggialo tutti! Adesso è arrivato il tempo di annunciare la fine della mia carriera di atleta professionista. Istinto, la mia sensazione mi dicono che è il momento giusto di ritirarmi. Tutta la vita ho sentito sempre, ho seguito il mio istinto, e quell'istinto è arrivato dopo le Olimpiadi, e naturalmente mi ho preso un po' di tempo, come ha già anticipato, e naturalmente io seguo questo. Con i complimenti della federazione e di tutti gli amanti dello sport. Credo che se fosse possibile mettere una telecronaca su un caminetto per un telecronista, credo che se fosse metaforicamente almeno possibile, mio amico Jerry De Rosa di Sky, questa sua telecronaca dell'ultima medaglia olimpica di Zöggler, il bronzo di Sochi, beh, finirebbe sul tuo caminetto, Jerry, o no? Sì, sì, io a casa non ho il caminetto, però hai il caminetto, hai qualche scaffale, c'è. Oppure sei come quelli che prendono l'Oscar e lo mettono in bagno, non lo so. Sì, infatti, no, tengo poche cose, ma questa è l'arco di Londra, ce le ho. Questo è l'arco di Londra, sì. Ce le hai. Senti, ma cosa ha voluto dire raccontare? Non l'hai fatto molte volte in una carriera in cui ti sei dedicato a tutto quanto, dal basket al calcio eccetera. Cosa ha voluto dire raccontare Armin Zöggler, che è stata una leggenda? Adesso non voglio usare toni troppo elegici che mi fanno venire poi il diabete eccetera, però raccontare Armin Zöggler è qualcosa di particolare. Sì, io l'ho vissuta come una grande responsabilità, perché siamo di fronte davvero a un grandissimo, e ha voluto dire soprattutto per me, che mi sono avvicinato, diciamo, in tarda età, solo in tarda età come a questa disciplina, insomma, essere di fronte a un vero e proprio mostro, cioè andare a ricostruire una carriera lunghissima cercando di averne il massimo rispetto. Insomma, credo che questo sia il motivo per cui ho vissuto con molta emozione quella giornata, così come, insomma, vedendo ieri il suo ritiro, leggendo i giornali sul suo ritiro. Ma c'è un'età per tutto, è bellissimo ritirarsi. Era arrivato il momento, è bellissimo ritirarsi con l'ultima medaglia olimpica sul petto, uno degli atleti più vincenti della storia dello sport italiano. Bisogna saper dire basta. Chi balla una nota di troppo, poi magari rischia di rovinare un po' la sua patina di immortalità, mi fa schifo, la sua patina leggendaria. Senti Jerry, invece hai raccontato anche un'altra cosa che non finirà sul caminetto né sulla mensola del bagno, ma Russia-Moldova l'hai raccontata, le qualificazioni a Euro 2016. Sei stato convocato anche tu dal ministro dello sport russo Vitaly Mutko come testimone del misfatto del disastro di Cappello. Ma di Cappello, la nazionale russa mi sembra una squadra molto povera, poi non so quanto possa contare la mano di Cappello o meno, però se il ministro dello sport russo pensa di avere in questo momento dei giocatori che possano fare molto di più, insomma si sbaglia di molto, perché mi sembra che intanto si sia questa squadra non sia all'altezza, poi il Cappello non è in grado né in mezzo a non so quanti milioni di abitanti della Russia di andare a fare di meglio, allora questi sono problemi, allora sta bene a convocarlo, però sinceramente può giocare meglio, ma di tanto, ecco, questa squadra. Beh, però se tu dici io prendo allenatore numero uno, lo ricopro d'oro, è vero, magari ho quattro scarponi, però se io prendo il numero uno qualcosa deve fare, se non mi fa vedere niente io lo convoco al Cremlino e gli faccio pelo e contropelo e non lo pago per 4 mesi, perché pare che da 4 mesi non becchi lo stipendio. Jerry, io posso chiederti un attimo di pazienza per il traffico, poi finiamo la nostra chiacchierata rapidamente. Tutti convocati. Quindi abbiamo scoperto che Jerry De Rosa andrà con Cappello da Vitaly Mutko come testimone oculare di questo 1-1 con la Moldavia, deponendo a favore di Cappello, sì, a favore di, mi pare di capire, a favore di Cappello, perché questi sono quattro scarponi, di più non possono fare, no? Così. Sì, sì, anche se devo dire che presumibilmente, come dicevo prima, in un'azione così grande come la Russia ha qualcosa da fare, però... Sì, però Jerry, tu mi insegni che anche nella pallacanestro hanno avuto, dove sono stati, vabbè, la contropotenza mondiale, ma stiamo parlando di anni molto troppo lontani, hanno avuto delle fasi di ricostruzione ondivaghe, grandi risultati a livello di club dove potevano versare molti soldi e comprare molti giocatori, a livello di nazionale fasi di ricostruzione alterne. Sì, sì, dovute anche a motivi extrasportivi, perché comunque insomma non hanno vissuto periodi facili, insomma negli ultimi 20 anni, fasi alterne, quindi ci sta insomma che vengano fuori generazioni più o meno forti dal punto di vista sportivo, non solo nel calcio ma anche negli altri sport. Sentiamo presto per l'Eurolega, caro Jerry. Siamo pronti, sì sì, con speranze, fatti vedere delle grandi partite, insomma ci sono delle squadre molto forti quest'anno, ma anche buone speranze per le italiane. Per le italiane, per Milano, mi sembra l'unica competitiva, insomma. Sì, sì, se vuoi Sassari però può togliersi delle soddisfazioni sulla singola partita, la squadra è intrigante, quella di Meosacchetti, non ha pressione, qualche scalpo eccellente lo può fare a casa. Può farlo, e poi ha un girone, bisogna scoprire un po' Nizhny Novgorod, che sarà fino ad essere domani, i Sassari e lo Žalgiris di quest'anno, che non mi sembra gran cosa, almeno sulla carta. Insomma, possibilità di arrivare a quarta ne ha, anche perché sembra che sia già un buon livello di combattenza la squadra, anche se tutta nuova. Grazie Jerry, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao Jerry De Rosa. Allora, intanto saltano fuori anche delle dichiarazioni d'antan, no, di Bracciale. Ora, non vorrei creare il mostro come normalmente si usa a fare in questi casi, però, insomma, le frasi su questo dialogo su Skype e agli atti dei magistrati di Cremona, no, tornando al problema del tennis e del tennista azzurro, tra l'altro non solo Bracciali, ma pare che anche sempre agli atti della procura di Cremona, e fatto salvo il principio della presunzione di non colpevolezza che vale sempre ed è uno dei miei dogmi assoluti, ebbene questa conversazione su Skype con il commercialista di signori Mario Bruni c'è anche questa frase ripescata dagli archivi di qualche anno fa di Daniele Bracciali: se fosse per me nominerei Moggi ministro dello sport, uno come lui bisognerebbe sfruttarlo nel modo giusto, purtroppo ha esagerato ma è un carattere incredibile, certo, perché i metodi di lavoro sarebbero senza dubbio efficaci, me lo immagino, dice Bracciali, chiudere i colleghi in uno stanzino nel corso di una riunione dei ministri se non lavorano bene, stupendo. Spero scherzasse. non ho le prove, ho solo un virgolettato, sono solo dichiarazioni. Mi fermo qui. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Luca Vicenza, buongiorno. Buongiorno, salve. Io voglio parlare riguardo alla possibile, probabile vendita del Calcio Napoli da parte di Laurenti. A mio modo di vedere, credo che il modo di leggere questo possibile evento dovrebbe essere più sul piano, come dire, pratico e economico, nel senso che circa 10 anni fa De Laurentiis, che è soprattutto uomo d'affari, uomo di spettacolo, sì, che uomo di calcio e di sport, ha visto una grande opportunità, cioè sì, ha comprato una squadra, grande brand fallito, sì, bravissimo, e questo è stato sicuramente un grande elemento di intuizione. Lui poi ha avuto la capacità imprenditoriale, sì, di applicare metodi corretti e come dire, efficienti, portando, certo, certo, ai risultati, no, che ha portato. Ma questo non è mica peccato, eh? No, ma non vuol dire, nel senso, quindi se oggi lui valuta la possibilità di vendere, è sempre nella stessa logica, cioè, certo, no, in una logica, una mossa aziendale, una mossa manageriale, una mossa imprenditoriale. Esatto. Anche perché dal punto di vista sportivo lui si è reso conto che ora come ora non vince lo scudetto, non vince la Champions, quindi probabilmente ha raggiunto. No, ma poi posso... che poteva raggiungere, l'ha raggiunto, insomma, ecco. Sì, oppure per raggiungere quegli altri obiettivi dovrebbe spendere dei soldi, tirare fuori dei soldi che trasformerebbero una impresa aziendale, un'impresa manageriale in qualcosa di, in un'impresa in perdita, quindi dovrebbe tirare fuori dei soldi che non sarebbero giustificati da un controvalore, no? Può essere questo il ragionamento. Ho fatto crescere il Napoli in maniera saggia, sagace, scaltra, fino a dove ho potuto. Che poi se sia divertito, non ho dubbi. Che si sia appassionato sul Napoli, non ho dubbi, perché è così. Invece adesso ho preso questo grande brand a 4 soldi, gliene ho messi diversi, l'ho fatto crescere, l'ho portato al livello per me più alto possibile e ora lo vendo al miglior offerente. Potrebbe essere un ragionamento di questo tipo che, ripeto, non avrebbe in sé nulla di peccaminoso. Franco da Brindisi, buongiorno. Ma quale Franco da Brindisi, Carlo? Sono io, Franco Piantanida. Ma ieri c'è stata la Supercoppa Italiana di Volley e tu non ne stai parlando, stiamo quasi per chiudere la puntata. Ma cosa mi devo inventare io per parlare della Supercoppa Italiana di Volley? Ma le tue risate, li vedo tutti seri. Ma perché fanno anche la Supercoppa? Ma certo, la cucina Lube Banca Market Reggio di Macerata. Anche questa a Doha? Ha vinto Macerata 3-2 contro. Dove l'hanno giocata? A Doha? Dove l'hanno giocata? No, non a Doha, magari. Dove? A Brindisi l'hanno giocata. Ah, è per quello che sei Franco da Brindisi. Beh, allora, bravo, vedi che ne sai. La Macerata ha vinto per la quarta volta e poi domenica parte il campionato. Quest'anno Radio 24, copertura totale del campionato italiano di volley maschile e femminile. In un'altra vita, forse, sì. No, ma io sto scherzando. Ti perseguito, sarò la tua ombra della patata. Ma io mi diverto moltissimo, mi diverto moltissimo. E poi tutti quanti baschettari e volleisti, baschettare e volleiste, tutti quanti all'Hollywood con Pozzecco, come è successo ieri. Sono tutte cazzate. Perché no? Vabbè, dai, andiamocene, dai. Vabbè, dai, andiamoci, andiamo, aggiorniamo la seduta domani. Tra l'altro oggi è grande festa di Radio 24, che qualche giorno fa ha compiuto quanti 50 anni abbiamo? Quanti anni abbiamo? Non mi ricordo più. 46? 15? Ah, 15, solo 15 anni. Solo 15 anni che siamo qui, ragazzi. Mi sembra un'eternità. È molto divertente da mettere in un film. Ci conto. Ciao Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, Claudia Schettini in redazione. Saluto anche il capitano, non più giocatore, Fabio Cantadori. Saluto tutti voi. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. Domani, se avete ancora un po' di santa pazienza, dopo il GR delle 2. Ciao. Viva l'ignoranza! È colpa di mia moglie se non parto con voi. Perché non mi credi? Non lo sapete che ha fatto. Ma la distrazione non invece al contesimo del tipo domani. Ma non lo sai, non è la domenica sagra. Su a papà, fai sentire. Oh, di forza Roma. Come da un bravo papà. No. E di forza Roma. No. E di forza Roma. Non se ne via, signori, di forza Roma. buona, Griccio, che scegliere lì! Ma per Fiorazziale, oh! Se no ti dico, eh! Faccio piangere a domani,